Benvenuti alla 11ª trasmissione di Cialtroni nello spazio. Adesso dovrei ripetere le parole che dico tutte le volte, ma le ripete Francesco. La famosa trasmissione culturale musicale di informatica e altre cialtronate curata dai ragazzi del Circo Lab. In onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni mercoledì attorno alle 13:15, in replica di notte quando capita, non abbiamo ancora deciso in realtà un giorno. A volte anche in diretta, a volte in diretta quando gli studi sono liberi la sera, in effetti. 13 secondi di sigla, poi devi essere pronto con la musica, Alessandro. Alessandro non è mai preparato. È stato un po' brusco stavolta, mi sembra. Sì. Siamo ancora in diretta, però. Vabbè, noi adesso avremo il coraggio di chiedere ad Alessandro chi sono questo gruppo che ci sta presentando in questo momento. Allora, il gruppo di stasera sono i Tamil Decipil. Allora, sono... vabbè, facciamo subito l'intro che così siamo a posto. Allora, nascono nel 99 e aggregati intorno a un centro sociale di Empoli, l'intifada di Ponte a Elsa. Famoso intifada anche per aver partecipato al progetto Critical Wine, di cui sabato scorso c'è stata l'edizione a Verona. Sì, esatto. Naturalmente noi siamo sempre registrati, quindi presumiamo che ci sarà stata. Speriamo bene. È un gruppo che fa folk, un po' sullo stile Modena, richiamando un pochino di sonorità sudamericane e di questo tipo. Tant'è che nel 2002 hanno fatto una serie di concerti accompagnando i Modena City Rammer, Roy Pace, eccetera eccetera. Questo era un album che avevano fatto uscire nel 2000 e faceva parte di un progetto, un CD per il Chiapas. Erano alcuni brani raccolti, sono tutti raccolti sotto licenza Common Creative, che andremo a descrivere oggi. Ecco, facciamo così, visto che stiamo rovinando la canzone continuando a parlarci sopra. No, ma propongo... questa era una canzone da tappetino, poi abbiamo canzoni. Propongo che adesso ci mettiamo a fare giù una bella scaletta di che cosa andiamo a parlare oggi, così la gente decide se ascoltarci o no. E dopodiché lasciamo ascoltare una canzone di questo gruppo. Ma direi sì, va bene. Allora, la scaletta ce la fa Marco oggi. Ovviamente sono preparato, l'unica cosa che ho scritto, quindi. Allora, parleremo appunto di questa licenza per pubblicare scritti e cose del genere, che appunto è la Creative Commons. Proveremo a dare una introduzione abbastanza ignorante sulle reti e su come attaccare insieme i computer per fare in modo che si parlino in qualche modo. Ma ignorante perché tu non sei capace? No, ignorante nel senso, partendo diciamo proprio dal livello terra-terra, senza... Iniziamo dalla domanda più difficile, che cosa vuol dire rete di computer? Lo sì, dico dopo la pubblicità. Lo facciamo dopo. Mandate la pubblicità. E poi volevamo appunto parlare, se si avanzerà un po' di tempo, però non lo garantiamo, di un progetto che è quello dell'UBS, ovvero sia di un tot di persone che non ha nulla da fare e quindi decide di aiutare le persone che vogliono avvicinarsi al mondo di Linux. Tra l'altro, per parlare dell'UBS, oggi in studio con noi c'è Andrea Giannini, che quindi direi che subito va a presentarsi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, io volevo fare una dedica, posso? Vabbè, sì, dai. Volevo salutare la mia mamma. Perfetto, allora anche questo succede a Cialtroni nello spazio. Una canzone e poi torniamo subito a parlare di informatica. Allora, questa è Musico Ribelle, sono i Tamil Decipil. We'll be right back. labbra si ribellano e più sopportar non posso. Amo la libertà, il vino e le canzoni. Balla forte, compagna mia sorte, grida forte, amo la libertà. Balla forte, compagna mia sorte, grida forte, amo la libertà. La la la la la la la la la la la la la la. Lasciamo anche questa allegra musichetta per entrare nel vivo della trasmissione di oggi. Le licenze Creative Commons ce le presenta Alessandro. Allora, il progetto Creative Commons è un progetto internazionale che cerca di produrre una licenza sullo stile della GPL che abbiamo presentato nelle prime puntate, e però una licenza dedicata più che altro ai prodotti multimediali, artistici, legati comunque al mondo della creatività più che a quello del software. Questo genere di licenze servono a tutelare i diritti d'autore e dare un tipo di licenza più flessibile e che permetta all'autore, per esempio, di concedere, invece che il classico tutti i diritti riservati che è scritto sull'etichetta di tutti i CD che avete e quant'altro, o in inglese o right reserved. La dicitura della Creative Commons è alcuni diritti riservati, ovvero l'autore si riserva ovviamente il diritto di controllare l'opera, però permette per esempio la divulgazione, la distribuzione anche gratuita dell'opera, la possibilità che l'opera venga condivisa via rete, insomma esistono diverse modalità, la possibilità che l'opera venga riutilizzata, rielaborata in maniera totalmente indipendente. E beh, tanto per cominciare diamo una serie di contatti, di collegamenti. Allora, il sito internazionale è www.creativecommons.org, creativecommons.org, commons con la s.org. Il sito è fatto molto bene, è estremamente divulgativo, purtroppo è in inglese, per cui se non siete molto pratici con la lingua potrebbe essere difficile. Comunque è corredato da una serie di grafiche e disegnini che servono a far capire esattamente qual è l'obiettivo del progetto e quali sono le diverse licenze che esistono. Purtroppo quando si parla di diritto, perché l'argomento è questo, comunque visto che è il solito pippone me lo prendo. No, ma lo renderemo anche più divertente tra poco. Ad esempio iniziamo con le domande trabocchetto. Iniziamo subito con una domanda contro Alessandro. Prima che ci presenti gli altri siti di collegamento, ti vado a chiedere, nelle prime puntate avevamo parlato di Copyleft insieme a Wuming, che ricordiamo è un collettivo di artisti e autori che scrivono e lasciano la possibilità di scrivere e di scaricare, scusate, di leggere i loro scritti gratis, e appunto Wuming 1, che era quello che avevamo intervistato, ci raccontava che non si poteva trarre un film da un loro libro senza chiedere il loro permesso. Questo tipo di licenza lui l'aveva chiamata Copyleft. Si può dire che rientra un po' nel calderone anche delle... Allora, sì, è vero. Il problema delle licenze è piuttosto complesso, nel senso che, come è stato per la GPL anni fa, ormai più una quindicina di anni fa, non mi ricordo esattamente di più. Quando è nata la GPL? Intorno agli anni 90. Allora, chiediamo subito la domanda all'espertone Andrea Gelmini. Io con le date proprio non sono ferrato. Ora possiamo inventare. No, comunque sostanzialmente bisogna ricordare che provenendo dall'ambiente informatico anche la GPL ha subito delle release, per cui attualmente siamo non nella forma natia come fu concepita, ma siamo alla versione 2.0 e si sta già parlando della futura, qualcuno sostiene imminente, ma si dubita, 3.0, che avrà una serie di adattamenti proprio per tutto quello che riguarda le nuove problematiche legate appunto ai contenuti e all'informazione come cultura, e quindi potremmo aprire parentesi sul software in quale forma di informazione, bla bla bla bla bla. Comunque sostanzialmente la prima forma nasce insieme al progetto GNU, e quindi risale all'83. All'83, quindi ho sbagliato di più o meno 7 anni. Perfetto. Allora, comunque oggi parliamo... facciamo un'altra domanda ad Andrea, visto che mi sembra ferrato. Ti chiederei, Andrea, se secondo te i cambiamenti che ci sono stati in tutti questi anni della GPL sono stati dovuti un po' al mondo che cambiava, o era un tentativo di tutelare meglio dal profilo legale le licenze che dovevano essere, sono state anche messe alla prova in alcuni tribunali recentemente? Poiché io sono logorroico e poiché il tema delle licenze è sempre molto complesso e articolato, infatti te l'ho chiesto senza lasciarti studiare, appunto perché così no, ma questa potrebbe essere banalmente per dire di interrompermi quando volete, perché altrimenti riesco a inventare stupidaggini a iosa, e quindi fondamentalmente proprio perché si tratta di un campo minato e soprattutto molto delicato per parecchi aspetti, l'evoluzione che si sta avendo su tutte le licenze e comunque tutto il panorama che sta muovendo cerca di stare un po' al passo con appunto le nuove possibilità che offrono i media da internet in poi, come nuovi mezzi di comunicazione. Non dimentichiamo che di recente, proprio per fare un esempio molto concreto su come sia davvero articolata la cosa, le polemiche che sono nate pochi mesi or sono in seguito alla decisione di applicare, per quello che riguarda la GPL nei casi di documentazione, il fatto di, paradossalmente, mentre sul software posso prenderlo e modificare quello che voglio, la documentazione veniva richiesto di non essere toccata, e quindi per la documentazione della GPL non potesse essere modificata da alcuno. Questo sollevando, infatti, dei problemi. Ora qui è nata una nuova licenza da questo problema. Sì, però anche qui la visione in genere infantile che si ha su queste cose, che è da evitare, è che non è che il mondo è diviso tra buoni e cattivi e stupidi e intelligenti, ma in realtà è diviso, o meglio diviso, la questione è complessa e non di facile soluzione. Proprio che succede? No, stiamo non guardare mai i segni che facciamo noi. Un litigio a gesti sui volumi di registrazione. In ogni modo, dicevo, il problema nasce nel momento in cui ci sono le ragioni per entrambe le parti, e chi la documentazione scrive e chi della documentazione usufruisce, e così via. Ora, questo banalmente, insomma, era un esempio molto concreto di un caso dove GPL e quant'altro, comunque forme di licenza che per anni hanno dimostrato affidabilità, forza, eccetera, si trovano a combattere, tra virgolette, insomma, si trovano a dover affrontare una situazione che muta e che diventa più complessa, come quella appunto della documentazione libera. Facciamo esempio banale, ma tanto per capirci, Wikipedia, che a quel punto si slega da tutto quello che può essere il modo classico di concepire delle norme studiate per una pubblicazione, piuttosto che una realizzazione tipica che passa da un produttore, passa poi da un distributore, eccetera eccetera, a quello che invece è qualcosa di molto più fluttuante e etereo, se vogliamo vederlo così, nel caso di internet. Quindi insomma, per rispondere alla tua domanda, sicuramente anche la nuova fame e le nuove esigenze sulle modifiche delle, delle licenze nasce e continua proprio in virtù dei mutamenti che il mercato nel senso più lato offre a. Non dimentichiamo che anche BSD, per esempio, è passato, la licenza di BSD Nintendo è passata per notevoli mutamenti col tempo. Ecco, di BSD non ne abbiamo mai parlato, magari ne parleremo in una delle prossime puntate. In realtà invece poi di Wikipedia ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, e abbiamo anche quasi un annuncio da fare, nel senso che prima o poi sarà possibile scaricare le vecchie puntate di Cialtroni nello spazio. Sì, tra un paio di settimane dovrebbe tornare operativo, o meglio pienamente operativo, il progetto Circola. E allora approfittiamo per ricordare il nostro sito. Allora, www.circolab.net. Sulla destra trovate il link Cialtroni nello spazio, trovate tutte le vecchie puntate e soprattutto gli argomenti e i link delle vecchie puntate, e soprattutto trovate un form alla voce di la tua. Sì, ma l'ho inventata io. E infatti è per questo che ancora nessuno l'ha trovata. Potete compilare il form inserendo la vostra mail, un titolo e il contenuto, e magari farci sapere di cosa volete sentire durante la trasmissione. Concludiamo un attimo la questione Creative Commons. Dunque, se siete degli artisti in senso lato, la Creative Commons copre qualsiasi aspetto della produzione artistica, quindi si tratta di fotografie, musica, fotografie in movimento, video, scritti e quant'altro. E non solo, copre anche i media non tradizionali, quindi copre anche la produzione via web, per cui potete farvi un sito e marchiarlo Creative Commons. E quindi è una licenza che serve a proteggere i diritti d'autore in maniera meno restrittiva rispetto al copyright classico, e soprattutto a costo zero. Infatti il progetto nasce proprio con questo obiettivo: fornire una licenza legalmente costruita, cioè costruita da dei professionisti che hanno lavorato ovviamente sempre in maniera gratuita e che hanno studiato prima negli Stati Uniti e poi nei vari progetti nazionali come integrare queste forme contrattuali all'interno delle varie legislazioni. A dire la verità, in Italia ci sono notevoli problematiche legate al monopolio della SIAE, faremo due accenni dopo. Comunque, se avete prodotto delle opere artistiche, diciamo, delle opere di intelletto e volete registrarle sotto una licenza di questo tipo, dal sito www.creativecommons.org ci sarà un enorme bottone con sito Publish che porterà una pagina tradotta in italiano in cui vi verranno fatte pochissime semplicissime domande che sono: permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? La risposta è abbastanza banale, nel senso che se volete che qualcuno possa riutilizzare l'opera, attenzione, voi mantenete comunque tutti i diritti sull'opera, compreso quello di farne usi commerciali. Questa licenza copre i diritti degli altri, non i vostri. Quindi permetti che la copia venga utilizzata intende dire permetti che gli altri ne possano poi rifare un uso commerciale, ad esempio integrare il vostro brano musicale in un film venduto. Oppure la seconda domanda è: permetti che la tua opera venga modificata, ad esempio che ne vengano fatti dei remix? E qua ci sono tre opzioni, è molto simile a quella della GPL, nel senso che la risposta è sì, purché l'opera risultante sia comunque distribuita con la stessa licenza. E questo è particolarmente utile perché fa in modo che anche i lavori riprodotti vengano distribuiti con la stessa licenza, quindi che a chi avete dato la libertà di utilizzare ridia la stessa libertà. E poi ci sono un paio di domande: in che tipo di giurisprudenza siete, cioè in che paese volete pubblicare la licenza, ovviamente l'Italia nel nostro caso, e che tipo di opera è, perché ci possono essere le modifiche. Dopodiché cliccate sul bottone in fondo che scegli una licenza e vi permette di scegliere la tipologia di licenza. Quindi va bene, nel caso generico vi va bene, vi va bene quella generica CC, che è la licenza Creative Commons di base, che va bene nella stragrande maggioranza dei casi. Esistono delle alternative particolarmente utili, che sono la Share Alike, che è una licenza studiata apposta per la distribuzione attraverso reti che possono essere peer-to-peer, ma anche la rete tradizionale, quindi via web. Esistono altri tipi di licenze che si appoggiano sulla GPL, eccetera. Comunque, se non volete addentrarvi nelle varie problematiche o se non avete esigenze particolari, ad esempio esiste una licenza apposta, comunque studiata apposta per i DJ, che si chiama sampling, dove è possibile distribuire anche solo i campioni. Comunque, se non avete esigenze particolari, vi schiccate sul bottone scegli una licenza, vi verrà stampata a video il logo, la licenza, quindi il testo contenuto con tanto di richiami giuridici e tutta una serie di gadget che servono per pubblicare la vostra opera. Dopodiché voi potete prendere quel marchio, stamparlo sopra la vostra opera e pubblicarla, e avete sostanzialmente un vero e proprio contratto legale studiato per l'Italia, quindi valido per l'Italia, con cui potete distribuire l'opera, garantendovi il diritto d'autore sull'opera senza però incidere sul riuso che ne possono fare gli altri. In Italia abbiamo detto un po' di problemi, nel senso che la SIAE è monopolista sulla gestione delle opere di intelletto, ad esclusione delle fotografie, delle opere letterarie e di un paio di altre cose che non mi vengono in mente adesso, comunque, quindi sulle opere musicali, sui video eccetera. E per chiunque faccia un uso commerciale, inteso in senso lato, quindi anche promozionale, quindi anche se siete una band musicale decidete di fare un promo per pubblicizzarvi, anche quello è inteso come promozione commerciale, dovete per forza pubblicare sull'opera il marchio SIAE. Purtroppo l'Italia ha questo vincolo e che toglie notevole flessibilità alla Creative Commons, e non c'è molto da fare, nel senso che finché la legislazione non cambierà non ce la dobbiamo tenere. Comunque, se volete produrre del materiale e lasciarlo liberamente in internet, quindi senza farne promozione, quindi non avete un'etichetta o cose di questo tipo, potete tranquillamente usare la Creative Commons, perché vi tutela, permette agli altri di riutilizzare le vostre opere, di distribuirle e non senza ulteriori impegni, perché ricordiamo che comunque l'utilizzo della SIAE ha un costo, bisogna essere iscritti o comunque pagare le varie consulenze che servono per pubblicare le opere, mentre la Creative Commons è completamente a costo zero. Sì, due note brevi a latere, tutto questo. È interessante notare come la struttura italiana per quello che riguarda la SIAE abbia una differenza sostanziale, ad esempio, col mondo americano, dove nascono queste licenze. Cioè, se negli Stati Uniti abbiamo dei gruppi di lobbies che hanno tutti gli interessi a difendere un insieme di appunto privilegi e strutture per quello che può riguardare le varie società di diritto d'autore, in Italia la situazione prende una piega ancora più drastica e buffa. Certamente. Per certi versi. Beh, in America esiste la RIA, che è l'equivalente della SIAE, però non è monopolista, perché vabbè, tendenzialmente gli Stati Uniti hanno una legislazione meno accentratrice per cultura generalmente, però esiste la RIA, e tant'è che esistono anche opere prodotte senza i diritti della RIA. Lo stesso Vitaminic, mi pare, distribuisca una serie di opere con segnalando se è pubblicato attraverso la RIA oppure no. Tipo un artista che ha avuto molto successo in Italia come Damian Rice l'anno passato è stato pubblicato senza i diritti RIA. Ecco, e proprio in uno di per poter tastare ancora con più mano, per vedere proprio la differenza come sia tra gli Stati Uniti, dove appunto, come dicevamo prima, ci sono dei gruppi che hanno un interesse a difendere una certa situazione, e invece l'Italia, dove sostanzialmente mi spingo a dire la SIAE pretende diritti sull'aria, una fonte di informazione notevole da questo punto di vista è l'indagine di Report, che trovate sul sito di Report, sì, sì. Ma che è linkata anche dal sito dell'UBS, per cui ora non ricordo dove, perché la pagina l'avevo fatta io, quindi non mi ricordo, ma la metterà sul nostro sito comunque, sì, sì, la prossima puntata. È una puntata piuttosto lunga, articolata, come del resto è questo tema, ma è interessante proprio per vedere a che punto si spinga il tutto, e può essere utile per capire perché licenze come ad esempio anche la Creative Commons possono avere difficoltà ad affermarsi e a essere effettive dal punto di vista legale eccetera in Italia, proprio per com'è la situazione. A proposito di tema lungo e complicato, mi sembra che il nostro tempo stia diventando lungo, allora tagliamo due soli riferimenti molto rapidi. Allora, un sito che fa uso della Creative Commons per pubblicare dei brani musicali, si chiama www.anomalo.org, Anomalo con la O, .com. Sono oppure anomalo.mediashape.it, però mi sembra più complicato. Sì, sì, no, www.anomalo.com. È un brano, è un sito particolarmente curato da dei professionisti che hanno deciso di dare la loro esperienza per la raccolta di questi album. Quindi raccolgono gli album dagli artisti, producono le copertine, una serie di cose, tutto licenziato sotto Creative Commons, quindi ve lo potete scaricare, eccetera. E tra l'altro è la musica che state ascoltando proprio, esatto, in questo momento. È il nostro tappetino in questo momento, che raccoglie un po' di brani della playlist a caso. Un altro sito che fa uso della Creative Commons è appunto Informatico, da cui abbiamo raccolto tutta una serie di informazioni e in queste puntate avete trovato anche i vari link sul sito. E niente, comunque è una licenza molto interessante, in particolar modo per gli artisti o comunque chi produce materiale di questo tipo, perché comunque dà una serie di garanzie e comunque non richiede particolare esperienza in campo giuridico informatico, anzi è tutto estremamente banale, per cui se producete registrate sotto Creative Commons. Andiamo a sentire un altro brano per tagliare? Sì, un altro brano, poi dovremo intanto anche decidere quale degli altri due argomenti trattare, se il Lug di Brescia o le reti, perché mi sembra che ci sia ancora poco tempo per affrontare entrambi. Il secondo brano musicale e poi vediamo. Camminando alla orilla del mare, disfruttando il dia bonito. Questo era il brano omonimo, Tamil de Cipil. Era una bella ballatina, insomma, dai. Beh, meglio della pizzica, dai. Nella pizzica la settimana l'altra, vabbè. Bene. Beh, nel frattempo noi abbiamo deciso di che cosa parlare, giusto Marco? Esatto, abbiamo deciso di non parlare di reti, io volevo parlare tanto, tutti mi hanno cassato e quindi... La settimana prossima sentirete le istruzioni di Marco per collegare due PC. Esatto, se non me lo sareste dire la settimana prossima non vengo più in trasmissione, voi dite, sarete tutti contenti? No, vengo lo stesso anche se non me lo lasciate dire. Allora, invece adesso volevamo parlare del LUG VS. E che cos'è Francesco un LUG? LUG sta per Linux User Group. Perfetto. Ovvero un gruppo di persone che si ritrovano e chiacchierano amichevolmente, risolvono problemi riguardo le problematiche del loro sistema operativo tipicamente Linux. E che cosa vuol dire BS, Alessandro? Scusate, non volevo ridere così. No, vabbè, allora LUG, appunto come ha detto Francesco, è un Linux User Group. E il LUGBS è il Linux User Group che lavora appunto, che tra virgolette agisce nella zona di Brescia ed è un appunto questo gruppo di persone che ha deciso di aiutare coloro che si vogliono avvicinare a Linux e che diciamo con Linux vogliono fare più cose e quindi diciamo aiutare genericamente delle persone che vogliono, in pratica tutti voi che ascoltate la nostra trasmissione. Forse. E in cosa consiste questo aiuto nell'avvicinarsi a Linux? Fondamentalmente in una mailing list dove chiunque abbia un problema con Linux. Una mailing list? Esatto. Che cos'è una mailing list? La mailing list è una lista di persone, una lista di indirizzi email, per cui quando uno scrive a questa lista di indirizzi email, la mail viene mandata a tutti. E a quel punto tutti possono leggere la mail di questa persona. Ok, c'è la mailing list. Bravo. Ok, quindi allora supponiamo che Alessandro abbia appunto un problema con Linux e non sappia come fare, ad esempio, per non so, fare qualcosa. Cito un esempio di oggi: un tizio che chiedeva come mai un video andava lentamente con Linux e. Questa sua mail è arrivata a tutte le persone iscritte all'UBS e alcuni gli hanno risposto dandogli due o tre semplici istruzioni per migliorare la prestazione appunto della sua scheda video con Linux e questo dopo un paio di messaggi era tutto contento e ringraziava tutti del fatto che l'avessero aiutato a vedere meglio il filmino che voleva guardarsi. Diciamo che questo entra un po', se non sbaglio Andrea, entra un po' nel concetto generale che c'è nel free software, cioè questa volontà un po' anche di collaborare. Chiedo a te perché so che sei una delle persone più attive poi anche nel LUG di Brescia. Allora, da dove partire? Dunque, c'è stato storicamente nei vari gruppi con la diffusione di Linux un atteggiamento differente rispetto a quello che fu all'inizio da parte di tutta la comunità Unix, che inizialmente agiva molto più come casta che non come gruppo, e se quindi a tutt'oggi va di moda creare delle distinzioni tra i maestri di Solaris piuttosto che i guru di Solaris e così via, vi è una sorta di gerarchia dove vengono tenuti nascosti dei grandi segreti. Nel caso di Linux, nella sua diffusione, ha sempre accompagnato, un po' anche per le licenze che lo hanno seguito, un atteggiamento molto più collaborativo e di condivisione delle esperienze. Detto questo, vabbè, le informazioni fondamentali che vi servono per accedere al LUG di Brescia sono quelle che poi utilizzate poi per vedere il tutto. Il sito ufficiale è www.lugbs.it e da lì trovate non solo tutte le informazioni e quanto prodotto dal LUG appunto della nostra città, ma anche i link e riferimenti agli altri Linux User Group che agiscono nella provincia di Brescia, in particolare nella provincia di Brescia, comunque nelle zone limitrofe. In particolare vorrei ricordare il Garda LUG, che ovviamente agisce sulla zona del lago di Garda, e invece il LUG dell'Ovest Bresciano, che invece agisce nelle zone di Rovato e limitrofe. Sì? No? No, vabbè, Ma sì, prego. Ok. Bah, sì, prego. Vabbè, comunque esistono anche degli incontri del LUG o qualcosa del genere, attività fuori dalla rete. Allora, ma due brevi parole su come è nato il LUG e come ecco, si è mosso. Ecco, direi che è un'ottima idea. Beh, cominciamo a dire cosa non è il LUG. Il LUG non è un'associazione, non è un gruppo ufficialmente riconosciuto, sono semplicemente un gruppo di rimbambiti che si ritrova e trova come ottima scusa quella dell'informatica per andare a bere e mangiare, fondamentalmente. Non è un gruppo di tecnofighetti, e questo spiega anche perché fondamentalmente... Cioè, tranne Marco quando tira i suoi pipponi su Debian o non Debian... Ma che cos'è un tecnofighetto? sì, Marco, intendi il sistemista... Quello che può dire, mai sfondato un server in vita mia. Ah, ok, sì, lui, esatto. Quindi questo non è un ritrovo per tecnofighetti e quindi non è neanche il luogo delle smargiassate informatiche o dei quarti d'ora passati a guardare chi ha il computer più potente o ha fatto la trovata più simpatica e così via. Questo è dovuto anche al fatto che c'è, grazie a Dio, una forte eterogeneità che c'è stata sempre fin dall'inizio nelle persone che compongono il LUG stesso. Ora, è ovvio che far parte di un'entità che ufficialmente non esiste significa banalmente venire a mangiare e bere con noi poco più, per cui da lì si può trovare. Gli incontri una volta erano più numerosi sicuramente, oggi scarseggiano, sono di meno. Le iniziative continuano a esserci, ma fondamentalmente i veri punti di incontro restano l'uno, a volte due, Linux Day, che si organizzano in città appunto una o due volte l'anno, a seconda di che luna abbiamo in quel periodo. Per restare aggiornati comunque basta appunto controllare con una certa regolarità appunto le pagine del sito, che in questo momento non riusciamo ad aprire, però vabbè. Qui c'è un interessante, purtroppo siamo nel pieno di una migrazione, passando da una macchina non custodita dove salta sempre la corrente, passeremo a un server presidiato, purtroppo la situazione è antipatica, ma del resto appoggiandoci sulla gentilezza e la bontà della facoltà di ingegneria che ci ospita una parte delle macchine e della facoltà di matematica della Cattolica, diciamo che non possiamo pretendere più di tanto. E quindi con queste ultime parole di Andrea io direi che è giunto il momento di salutare tutti i nostri ascoltatori con la nostra fantastica sigla. Incredibile a dirsi, questa era la 11ª puntata di Cialtroni nello spazio. E nessuno ha ancora scritto una mail. Io ne ho scritto una oggi, ma non è arrivata. Soprattutto nessuno ha scritto email di protesta. No, effettivamente la cosa più incredibile è che Marco sia ancora vivo. Bellissima la maglia. Voglio solo descrivere in questi ultimi 30 secondi di sigla la maglietta di Marco, fuck internet, che direi che per un informatico è veramente la cosa più ovvia. Ci risentiamo la settimana prossima, ciao, ciao da ciao, Francesco. Ciao. Non ci saluti, Andrea. Mi state un po' antipatici.